dare un bollino, cioè, fa niente, insomma. Taglio. 1, 2, 3, 4. Secondo me, segnale 9, poco più di 9, dai. E pulita la radio, Luca. Diciamo, non è che sia proprio, non c'è una radio 5 comunque, non ce l'hai proprio. Comunque, grazie, mi chiamate, cioè, ma, tu vuoi entrare, vai. Se c'è portate, le prova. Vado a vedere. Sei fa un... Ah, si sente? Scappa. Scappa, è un po' gioco, vai. Guarda un po'. Le farve a rivisare, come si chiama, a rivisare? Come abiti vengo anch'io. Ah? Dove abiti che vengo anch'io? No, non mi piace, faccio una cosa sulla strada. È stato puntato per un spot per lì. Sì, ma l'ho aspettato, mi piace un sacco, ma mangiarne non riesco. Non lo fanno per me, devo essere sincero. Mangio quelle fresche, io quelle sì, o le secche no. Va bene allora, ok, ci sentiamo dopo se li attacchi. Vai Falchetto. Ehi Joker, fai un controllino Joker. Aspetta un attimo, fai il passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, e Santiago intorno agli 8, 8 così, sì. La radio ha un 4, buono però. Da 9 moduli Joker. Ah, hai ragione, non te l'ho detto. Monte Oro Basso. È pulita la radio? Quasi, dai. Sì, un po' cupo. KK, lasciamo, regolamenti così, da poi vi fanno tutto un pulito, per favore, sempre. Io non c'è problema. Io, va bene, dai. Tu che donna sei, Falchi? KK, là, io sono via Rockefeller, da. Ah, ho capito. Già va bene, quindi si è abbastanza in alto. Aspetta che controllo un attimo la coscienza, aspetta, vediamo un po', guarda adesso, dimmi quando va bene e quando va male, va bene adesso? No, mi piaceva più prima, se vuol dire la verità, guarda adesso, va bene adesso? Sì, un po' meglio, sì. Aspetta questo passaggio, aspetta qui, adesso? Simile a prima, diciamo buona. Adesso? No, adesso si è preso la fermi di più. Sono com'era anche tu. Va bene così allora. Lascialo com'era, non toccare, non gioca bene, non toccare, lascialo com'era. Va bene Claudio, così. Sì, non toccare, non muovere lo zaino, lascialo così com'è. Una volta che è regolato, lascialo così. Ok, dai, è più pulita la zona radio. Sì, è perfetto, perfetto. C'è da eliminare quel tracchiare appena appena, ma non lo fa niente. Ok, ci sono entrato dentro in quel radio, sto girando. 10 minuti che siamo qua, radio, ci sentiamo dopo. Lascialo così. Va bene, lo lasciamo così allora. Ok, riprendi, ok. Ah, va, vieni, no, infatti ti ho detto che andava bene. Non ci voglio più di fare una mazza, non ci voglio di andare a lavorare, nulla. Ho bisogno di ferie. Cavagata. Dipende anche l'età che hai, Ma l'età, grazie a Dio, ho 40 anni, non è che sia vecchio. Però dove lavoro io sto diventando sempre più casino. Non è questione di soldi, perché grazie a Dio. Un posto statale, però si sta formando un ambiente di merda, si stanno imponendo delle regole di merda. Il mio lavoro è pesante, io faccio un muratore, ma non posso neanche lamentare. No, il mio diciamo che non è pesante. Ci sono tante rotture di palle, ci sono dove lavoro io 100 feste, 100 pensieri, chi lavora è cotta, chi lavora è cruda. E non gli va bene questo, in più tante volte ci rischiamo il buco del culo, quindi. È proprio così. Anche noi siamo qui da dentro, anche fuori, capito? Stai un po' fischiando. Adesso? Adesso no, ma il passaggio di prima sì. Forse perché mi sono staccato il microfono dalla bocca. Adesso non fischia ancora. No, negativo, non sto più fischiando. Capito, è un casino, e io lavoro anche abbastanza vicino a te. Scappacata, me lo posso immaginare anche dopo, dai. È sempre un cantiere lì dentro, un casino nero. Scappacata, dai, ci sono andato anche a fare delle documentazioni e compagnia bella, dai. Quindi è un casino nero per quello, timbrature, non timbrature, devi uscire, devi timbrare, che cazzo, ma perché non lascio le cose così che vanno bene così, boh? Capo, ma tu stai nell'ufficio così? No, aspetta, vabbè che lì in zona c'è molta roba. nel settore sanitario. Ah, camarada, allora capace siamo anche visti. Quindi è un casino, troppo, un casino nero, troppo dove siamo noi per giunta, ripeto, anch'io sono operaio, però stiamo andando e sempre più in parte dell'ora dentro, anche perché il personale sta diminuendo, stiamo coprendo il territorio sia di Sassia, di Alghero, di Ozieri, siamo sempre le stesse persone, cioè, anzi diminuendo perché la gente sta andando in pensione, li assume, non ne hanno nessuna Puglia, cazzo ci stanno pretendendo l'impossibile, come cavolo fai a coprire un interruttore così grosso, anche perché, ripeto, non sono soltanto diciamo gli ospedali, tutto quanto quello che comporta l'ASL, cioè è enorme, e tu ti fai il conto di gli ospedali di Sassari, di Alghero, Ozieri, Icchiri, poi l'altro Vertiesi, tutte le guardie mediche, tutti i poliambulatori che ci sono, Porto Torres, e poi ti dico, ma bisogna fare questo, cazzo ancora! bisogna avere pazienza con Pierre, purtroppo così, cosa devo fare? Vabbè, ma non va nemmeno bene. E poi ti pretendono che tu, sì, ogni volta che esci anche per andare a fare magari una riparazione, non so, ecco, all'ospedale Ponte, timbri, devi mettere il codice, e poi quando ritorni devi ricordarti di ritirare l'ingresso, e vaffanculo. Beh, a un certo punto poi ti rompo un po' le scatole, diciamo, vai. Guarda, di media quando diciamo faccio la squadra volante io, entro ed esco da lì almeno 5-6 volte durante la mattinata. Cazzo, ogni volta mi devo ricordare, impostare cosa nella macchinetta, la timbratura, il codice, dove sto andando, dove sto. Ma vaffanculo, cazzo! La rottura di palla veramente, guarda. Anche perché poi, oltre a quello, no, fai anche la reperibilità, fai 10 giorni di reperibilità, lo sai cosa significa 10 giorni di reperibilità? No, negativo. No. Allora, tu in poche parole, io sono reperibile di solito dall'1 al 10. Facciamo allora dalle 7 all'1. Dall'1 di pomeriggio sino alle 7 di mattina tu sei reperibile per 10 giorni consecutivamente. Siamo in tre a fare la reperibilità per tutto questo territorio. Come cavolo fai a fare tutto quanto? È negativo, un po' maruccio viene, dai. Male. Anche perché dal tempo di chiamata, al tempo di intervento, devo passare 20 minuti per qua a Sassari. Ah, un casino, beh. Capito. E poi ti dicono, cavolo, troppe ore, non te possiamo pagare, e te devi recuperare. E come fa a recuperare, scusami? Non so, chiedi a loro. Anche perché, sai qual è il problema? Che a me mi fai recuperare un giorno normale, non so, è un'ora normale. Se a me mi chiamano alle 3 di notte, non la puoi considerare un'ora normale. Bene, è positivo, e come fai a considerarla un'ora normale a quell'ora lì là? È assurdo, vai. Uno, e poi c'è questo, mi dice, vabbè, non ci vai. Se io non ci vado, mi tengo i carabinieri qui a prendere, e quello è il problema. Porca messina, addirittura arriva da quello. Allora, non so se ti ricordi l'incendio che c'era stato alla clinica, e dove c'era l'oculistica prima, un po' di tempo fa. Indovina a me chi mi ha chiamato. Mi ha chiamato il centralino dell'ospedale. Indovina chi mi ha chiamato. E chi? Ha detto, pronto il signore? Ha fatto sì. Qui la questura di Sassari. Si presenta immediatamente in clinica dove c'è l'oculistica perché c'è stato un incendio e deve intervenire immediatamente. Capito chi mi ha chiamato? Allucinante veramente, va. E tu prova a non andare. Vedo, ti prendo, si sa, purtroppo funzionerà così, E indovina il giorno io dove ero la notte, perché è successo di sera tardi, ero ad Alghero a fare una riparazione. Io mi sono fatto da Alghero a Sassa in 10 minuti, infatti poi mi sono avvicinato al comandante della polizia, gli ho fatto ascolti, mi sono presentato, mi avete chiamato voi, mi faccio sì, mi dica, io ero ad Alghero facendo. Io a Sassari ho fatto 10 minuti, ho buttato giù l'acceleratore, ho tirato se, a Sassari su, e ho fatto se c'è un altro velox, mi ha beccato a 180, mi fa no, non si preoccupi, se dovesse arrivare qualcosa viene da noi, facciamo il certificato di emergenza, e abbiamo chiamato uno e decadifico fatto. Boh, buono a sapersi. Su quella lì si è stato un po' fortunato, diciamo, là. Eh beh, ascolta, mi hanno chiamato loro, in caso di emergenza cosa fai? Quello è vero, però ti si rischiando un po' la patente, diciamo, là, perché secondo che trovi non è che la prendi così alla leggera. Secondo uno mi hanno chiamato la questura, secondo motivo, secondo cosa succede, a me un'altra volta mi avevano fermato, dove poi a Platamo ho fatto lo sbaglio di scendere a Platamona, per cui almeno 10 anni fa, mi avevano chiamato urgentemente in rianimazione, perché c'era un grosso problema, io ho buttato giù lo stesso acceleratore, stavo venendo da Sassari a Ottava, mi hanno fermato a 170, mi si è affiancata la Pantera e mi ha fermato. Come mi sono fermato, ho preso immediatamente il libretto patente, ne sono sceso dalla macchina e ho detto no, questa è la patente, libretto della macchina, e fate quello che volete, sono accompagnato immediatamente a Sassari in ospedale, perché devo andare immediatamente in rianimazione, che la gente sta morendo. Mi hanno guardato in faccia e mi hanno detto vada. Quindi, ma lì ti hanno voluto abbastanza bene, là. No, non è che beh, è abbastanza bene, il problema è quello, non ti va, oppure arrivi in ritardo, muore qualcuno, ti mettono le manette, cosa fai? Allora, a questo punto lo sanno, e tu hai questo problema qua, capito? Allora, ricordate una cosa, secondo l'emergenza, naturalmente se non affrontavano, ma se a un certo punto ti dicono, venga immediatamente che sta morendo la gente, perché manca tu, se possibilmente devi avere il teletrasporto immediato, anzi, la norma dovrebbero essere stati loro a accompagnarmi sia, se ti hanno detto vada, velocemente, non si preoccupi. Infatti stavo per dirtelo io, no, in quel caso lì sono loro che devono accompagnare, capito? Lo so, invece mi ha detto, no, allora siccome ha detto questo qui il numero del centralino, la chiamata è venuta e partita lì, c'è un problema in rianimazione urgentemente, se avete, mi ha dato il mio nome e cognome, fate la carta d'identità, fate quanto che volete, poi accompagnate immediatamente in ospedale. Mi ha detto no, vada. Vuol dire ho capito anche loro, vai. Anche ho detto uguale, io non ho mai preso una busta, non sto giocando, sto andando a lavorare. Ci mancherebbe altro, mica uno si mette lì a 180 per giocare, no? Già ne trovi i cretini che già lo fanno, eh? Ah, è positivo, quello che è vero, già ci sono anche quelle persone lì, però quelle persone vedi quando vanno, è diverso. Ma tu dovevi vedere la faccia quando mezzo sceso con patente, con il libretto della macchina e le chiavi, queste sono le chiavi, il libretto e la patente, accompagnatemi immediatamente in ospedale, mi sono presentato, chiedo chi non era, ecco, sta morendo la gente, muovetemi. quei casi lì, è logico che ti fanno scappare subito, Ma vabbè, come fare, io sono un tecnico elettricista, come fare c'è mezza rianimazione al buio, tu pensa che in rianimazione la gente attaccata ai macchinari per sopravvivere. È una cosa delicata, è una cosa delicata. Il giorno dell'incendio si era incendiato l'impianto elettrico nuovo che dava alimentazione alla rianimazione che c'è lì in clinica. Tutto per colpa di uno stronzo barbone che è stato sbattuto fuori due volte dalle guardie giurate, per dispetto è rientrato e ha messo fuoco alla lavanderia a fianco. E guarda, siamo stati fortunatissimi che il fuoco non era riuscito a superare una paratia dove c'erano 15 bombole di ossigeno. Lo sai cosa significa se arrivava lì il fuoco? Cavolo, certo che l'hanno trovato, io l'avrei indicato. Non è una bomba a mano, ne sarebbe sceso a mezzo palazzo, Claudio. Lo so, anche io sono quello Claudio. Non sono qua io, è una bomba a mano, sono qua perché... No, perché... Ah, Claudio, sì, stavo di per te. Ok. Non sono rientrato, così siamo solo morati. Claudio, io ti dico una cosa, le pignatte sono esplose sotto piano dove c'era il fuoco. Le renditi conto di quello che è successo. Qua sarebbe stata una strage, siamo stati fortunati che non ci sarebbe per far via. E poi non è che l'ha messo un punto solo, l'ha messo in quattro punti diversi fuoco. La lavanderia è andata completamente disintegrata. Tutto il quadro elettrico, se dovevo ripetere, sembrava sciolto al cannello. Su Maria Giuseppe, no, no, ha fatto, non so come parlare. Sì, l'ha fatto proprio per fare danno, certo, io non so cosa, c'è le persone cosa gli sono dette. Sì, basta prendere il vantaggio che è successo a Berlusconi e ti rendi conto un po' a che punto stiamo arrivando. Vabbè, ma posso capire, vabbè, uno gli ha tirato quella via, un singolato, la cura, ma quello per dispetto perché c'avevo il brutto fuori perché non volevo farlo dormire. Cioè tu pensa un po' e mi metti fuoco. Cioè non ho pensato tutta la gente, poverina, gli lista, sono credo, però io non capisco a che punto devono arrivare alle persone brutte. Allora, tu pensa, ha messo fuori uso la rianimazione, quindi tutti i pazienti sono dovuti andare nella rianimazione che c'è lì in ospedale. Oh, ha messo fuori uso le sale operatorie perché è andato distrutto l'impianto del nuovo, fatto a nuovo, della rianimazione e delle sale operatorie. Tu pensa un po' il danno che ha fatto così, milioni e milioni ha fatto di danno. Per carità di Dio, per carità. Vabbè. Che succedono, poi vabbè, poi possono succedere guasti, come che lui se l'ha fatta apposta. Quando sono reperibili io succede sempre casino, il giorno del tifone che mi è arrivato dal Ghero, lo ricordi? Positivo, quello era appunto veramente capita. Lo vi chiare reperibile. E tu con la subito. C'ho una sfiga addosso. Allora, ad Alghero è arrivato prima che a Sassari. Quando ci hanno chiamato, anche che poi ha fatto casino lo stesso di Alghero, l'ospedale Marino, non sono partiti i gruppi, guarda, sono scattati interrotti di tutto, è successo. Quindi ci sono messi in macchina con un collega, immediatamente andare verso Alghero. Quando in poche parole eravamo quasi sulla superstrada, è arrivata a Sassari, tutta la strada bloccata, ci siamo trovati imbottigliati lì dove c'è il Conforama, che si è formato un lago enorme, due macchine piene d'acqua, in mezzo a carriera. Mamma mia, mamma mia. Allora, anche lì cosa ho fatto? Ho preso, ho chiamato il 112, il 113, ho spiegato la situazione, mi sono presentato, che dovevo andare direttamente là. Riferrato, dopo 11 minuti mi hanno fatto uscire, entrare dentro Conforama, salire sopra nella zona industriale, scendere da una stradetta che c'è. Ma non dire, quindi siamo arrivati, in poche parole c'avevo davanti alla macchina pulizia, io dietro, perché ci hanno accompagnato. Siamo arrivati dopo un'ora e mezzo facendo slalom un gigante in mezzo agli abbi abbattuti. Presso Maria Giuseppe, mamma mia. Tu penso un po' il casino. E poi ci vanno a rompere il coglione, cazzo, con le timbrature, devi uscire, a destra, a sinistra, in quel momento sto pensando alle timbrature io. Non ci arrivano veramente. E si tirano la zappa e tirano stessimo per volte. Il problema è che ti mettono in croce a te, cioè tante volte secondo cosa succede non è che stai lì, prendi e parti. Allora loro, secondo loro io dovrei andare, ecco, mi trovo a Sassari, mi chiamo urgentemente ad Alghero oppure da qualche altra parte. Lì già vado direttamente, non è che torno lì in ospedale, timbro e poi ci riescono. Devono cambiare quelle leggi comunque, devono cambiarle e basta. Questo mi tratta a Brunetta che sta spingendo da destra a sinistra. Tutti i cari maglianori. Cazzo, cioè, tante volte gli dici, cazzo, cerchi di lavorare, ti mettono e poi ti pretendono anche che tu fai le cose fatte bene. Come fai a fare bene? Se non ti mettono nemmeno in condizione di farle. Cazzo, avevamo chiesto tre mesi nuovi. cazzo, ci hanno dato tre bidoni vecchi che preferiamo andare con la nostra macchina che andare con quelli lì. Sì, è vero, è proprio vero, guarda cosa stai dicendo, è proprio vero. Mi prendi Claudio, dai, che ti abbiamo messo un po' in bianco. No, non c'è problema per me, no. Io non so sempre parlare che fare, anche perché mi sto fumando una sigaretta che sento pace, in cucinare. Adesso non so se dovete andare lui a cenare, ho tre cose già ce l'hanno per te. No, negativo. Infatti c'è mia moglie già entrata in fa. Ma ci vuole ti vieni? Va bene. No, adesso c'è una conclusione, dai, magari ce la risolviamo dopo, dai. Ok, dai, mi ha fatto piacere, dai, ascoltarti. E se casomai ci siete più tardi dentro, dai. Saluto di Claudio, saluto di Marico, dai, ce la risolviamo le prossime, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, non toccare niente, ci sentiamo, vai. Ciao Falco, ci sentiamo alle prossime. Ok, anzi adesso mi approfitto ad andare a cenare, dai. Anche mia moglie ne arrivi col bastone e mi picchi forte. Ok Claudio, ci sentiamo eventualmente dopo, se non mi viene la biocco prima. Ok, ciao ciao, buona serata. Ciao, ciao Daniele, ciao, buona serata, siamo qua, non scelti il bar, siamo qua con Franco, ciao. Ciao, ma ciao ciao. fate più buia, per carità. Sto guardando, sito Ari era quello, sito Ari di Sassari. www.ari.it Sito di Sassari. Fa. Come va con il gioco? sa pure qual è il primo, secondo, quasi anni salta di frequenze. Succi, succi. Thank you. 300. Ma io non ce l'ho il coso di il contatto di Giovanni. Ci sentiamo sempre al telefono, non ce l'ho. Anche perché ti ripeto, io non fatico molto né su Messenger né su. Qualche volta mi contatto su Skype, altrimenti niente, non mi attiva il computer, mi guardo solo per letto, mi guardo solo la posta elettronica, le cose che mi interessano per lavoro, e basta, per il resto non me la tutti molto, tutto lì. Yeah. cavalletto, c'è una massa di Blue Yumi su questo internet, lasciamo appetito qua, non mi devo commentare, guarda, non mi devo commentare, io non mi devo dire, ma come passare il tempo, ma niente, mi sono fermi di tattica, vabbè, lo dico. Thank you. cammina bene l'aria con la marmitta sua. Chiaramente con quell'altra marmitta dovrebbe rendere di più, però ci vuole mettere un variatore. Allora sì. Allora sì, le spinge bene. Mamma mia, va bene, c'è qua che con l'altro dove sei. Comunque l'originale a mo' po' di piace abbiamo solo a dirti. Yeah. Diciamo che Leggera Foggia, dammi un rapporto, intanto la di fronte alla cosa che sono stati lì, sulla stazione grande che c'è, I'm cugini un po' più famiglia, un po' più grandetto come zona, però siamo lì, non è che ci sia tutta questa grande differenza, diciamo. Infatti il movimento non è che ci sia tutto questo grande movimento, anzi. E vabbè, sta tranquillo, di lusso. Yeah. posto. Tutto l'occhio. Yeah. mosaici. E quella valvola era un kilowatt di assegnamento. Mi da te. Poi sono a 250, 280 mAh di assorbimento con 25% di potenza. Quindi non piace per niente. C'è qualche cavetto, qualcosa che sta toccando cazzo, sta toccando dietro. E c'è due metri anche se tu non lo senti. Ma come è stato il ricordo del cielo? qualcuno di voi che ha avanti la testa. Allora, io Franco su quello non ci piove, perché io ti posso dire che nella mia macchina ci puoi mangiare dentro, e Franco lo sa, ci puoi mangiare dentro, ma a me piace sempre ordinato e pulito, e Franco ancora peggio, Daniel. Ma anche a me piaceva, bella, pulita, ci tenevo. Mi sono fatto un figlio, per carità, dietro mi fa una schifezza di volto. C'è come si la lavatrice, Mario, se la è forse così facile. Guarda, tra fanghiglia, se ogni tanto ci metti i piedi sotto il giro, infatti mi fai incazzare, cazzo, così giorno ma non manco vivo. Una mocca di una famiglia, c'è un atto di rosicia. Oh, io, più la rabbia, più la rabbia si allarga. Ecco, cosa è incredibile. Io, per dire, la mocca che ho tutti, come tutti, io, via, praticamente, non sono fatto in Roma. Proprio per evitare questa roba qua, non è specialmente. Poi, in estate, le capite la mocca che vanno benissimo sulle mie estate, diciamo così. Ma l'inverno fanno cagare. Non lo so. Ma, riprendi Claudio. Riprendo. Sì, ma è così, eh. Anche io mi sono comprato due tappeti in Roma per far sì che non faccio errore, soprattutto quando piove. Perché è bella la mocchetta, è bella a fare, a me piace. Il tappeto in Roma non sa di dare i numeri. Di cosa, di sport, sporca molto. Dico quelli che ho in cosa, in mocchette, nella macchina, tutte e tre. Si aspira, non si fa. Quel lavoro c'è un collega, le piace. C'è abbiamo uno che tiene con me le macchine in servizio, ogni tanto lavoro anche la mia, capite? Io invece mi dovrei comprare un carrello. Per trasportare chi ti pulisce la macchina? No, per metterci mio figlio. Lui è quello che sporca la macchina. Che capa! No, no, io la mia è grande, c'ho 22 anni, quindi non... Ti posso dire però che anche lì è un po' trasandato, eh. Perché ogni volta prendo la sua macchina, guarda, è una cosa allucinante. Non è che la tiene male, è pure sempre qui. Dentro è... non è che... la tiene molto molto loro, infatti mi incarico sempre. La sua bellezza è la mia, è andato a lavoro con la mia, glielo ho detto. Se la metta, la dice a lavorare dritta a casa e non mi porta la macchina a Binghino, già che se no te lo mando. Io purtroppo, mio figlio ha 7 anni, per carità. E a quell'età poi si mangia tutto in macchina, guarda, a controllarlo. Noi no, io guarda, sia io che mia moglie in macchina non faccio mangiare niente. Il semplice fatto è magari ho sportato i civili o faccio la vanna. Invece c'è molta gente che vede, ma niente, il gelato, il bizzino in macchina, mamma mia, fate sentire il gelato, le civili, la cioccolata, io ne rubi più. Guarda, a me l'altro giorno ho fatto una scoperta. E cosa del penale dei leggi specialmente la plastica e la mocchetta del sedile di dietro dello sportello. Beh, che cosa ti è successo? Cosa mi è successo? Perché ormai me lo mangio viva mio figlio. Cioè, si è messa a pasticciare la portiera col pennarello indelebile nero, la plastica e poi anche la cosa, la mocchetta dello sportello. Mamma mia, vabbè, sino a quando si mette a pasticciare la plastica. Non fare quelle cose lì, già ne esce con l'alcol, ma anche con la mocchetta è difficile. Con la mocchetta niente, anche perché è blu, cioè, rimane tra il blu metallizzato chiaro, da. E quindi col nero si vede tantissimo, ha fatto i cerchietti, giù mai me lo mangio vivo. I cerchietti ha fatto, mamma mia, 7 anni, no, non è possibile, no. Quando era piccola mai un muro, una poltrona, niente in macchina, sempre perché lo sapeva che prendeva tutti forti. Poi mio figlio ha passato tutto il muro, mi ha fatto quello, mi ha fatto quella, vedi qui, guarda già per mutrighi, già, ma sai che già, no. pericoloso. Come una volta, Claudio, vabbè, avrà avuto un 4 anni, qualcosa del genere, mio figlio. Però vedo che stava armeggiando vicino al computer, quello del fisso. Quel penale, mi avvicino io, ho fatto, guarda che faccio lui, no, niente, ho detto, non ti devi avvicinare al computer, ho detto mille volte, quando, ho visto che non c'era niente, ho detto, vabbè, ci ho portato la sera, e poi vado a dire, vado a accendere il computer, con facendo lo schermo, c'era tutto lo schermo fatiscato. No, è bello, però anche oggi diciamo la chiudere. Allucinante, ma guarda, i bambini sono così, non è che ci può fare niente, però sai, quando sono già un pochino più granditi che iniziano a fare cose che vogliono fare, io non ho tolto. Minimo 30. Ah, di meno, da 20 anni sono. Certo, figurati, io ce lo tocca. comune 24 e 504 portate dalla Toccai, ancora qua. Poi c'avevo anche un Lafayette, non mi ricordo, da preso del 1800 in Russia, e quello l'aveva regalato. Usava la mia ragazza, che allora che adesso è mia moglie, non so se ti ricordi Stefani. E lì usava il Lafayette, non so cosa, e aveva il canale, una monopola molto grande. Non ce n'è lavoro in giro. Un casino delle cucine, siamo saliti a spandare tutta la macchina e stavo disinfettando. Ma per carità. Vabbè. L'altro giorno invece abbiamo fatto il cambio delle linee elettriche dalla vecchia cabina alla nuova cabina che c'è lì all'avviamento. Un casino. Ui, per carità. Sempre casino c'è quello lì con la cucina. Per me sono nate male, lo stesso, l'hanno piazzate male, non sono funzionali secondo me. L'hanno piazzate male, sono piazzate bene, solo che lavano con la pompa lì dentro, una pinta, sono le macchine elettriche a gas. Ogni volta che andiamo troviamo tutte le manopole chiarate dei rubinetti gas, capito? Sì, vabbè, però anche come sono state, cioè non come sono state piazzate, che sono piazzate bene, però la predisposizione per me, cazzo, boh, per me il locale è piccolo, uno, e poi sono state disloccate male. Quello sì, quello sì. E poi, boh, non lo so, non si può fare una apparecchiatura con la pompa, con la ricchetta io. Vabbè, ma se non so se hai notato che persone ci sono lì. Io mi sono animale, non passone. L'animale vorrebbe bene, bestie! Che ritacca! Difendi Claudio! Io ogni tanto ho cercato di andare la varia, così scaldo un po' tutte, sto andando con 430, vediamo se è tutto a posto, perfetto. Sono sempre uguale, io ogni tanto cambio o la linea, non farò 440, 140 ce l'avevo stasera, sono andato con 430, non lo faccio mai come buona. Perfetta. Signore, scusate, io siccome domattina mi devo alzare alle 6, sinceramente ogni volta che faccio tardi, poi la mattina mia moglie dice che raglio, allora me ne vado a coricare. Vi auguro una buona giornata per domani e una buona notte. Adesso mi darò a tutti. Ciao ciao, fuoriti da parte mia. Sì. Ciao Joker, buonanotte, buon tutto. Ce la riesco a fare il prossimo. Ok, vai Claudio. Ciao Daniele, piacere ascoltarti quando vuoi. Noi siamo sempre qua. La sera fra le chiacchiere un fra. Scambiarci due dati anagrafici. Stammi bene, ciao, buonanotte, buona giornata per domani, che cresce. Ciao, buonanotte a tutti, ciao ciao. Va bene anche quello qua, giusto, va benissimo. C'è la moderazione che di segnale. Va bene. Anche l'altro sta usando. non ti serve a niente il commutatore, anche non lo agisci. A meno che non c'è un buon commutatore, allora un altro discorso. Ma perché si tratta che sul commutatore del regime di Breuga lasci uno da due, un altro no, uno da due, uno da più, uno da tre e uno da quattro. Sono lì, nel tuo cassetto mai usati con un luce, che non servono a niente. L'ho attaccato il giorno per commutare l'amplificatore, capo. A gente c'è solo un viaggio, si dice fuori. Lontano. Io l'ho attaccato, l'ho buttato nella cassetta, l'ho messa diretta. E infatti quel problema lì non l'ha più fatto. Va benissimo. Invece con quel commutatore la gente è caduta e poi rischia anche il problema sulla TV50, che è una bobina che gira. Thank you. che poco un amplificatore in ogni, da 400, uno di noi. Buonasera a tutti, buona parte, ciao.